La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori Radio 24. Grazie per l'ascolto, come sempre. Che oggi qui siamo in diretta alle 16:30, primi e 43 secondi. Ma siate in diretta o in podcast. Grazie da Oscar Giannino, come sempre. Vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Ho iniziato a rispondere a molti, insomma, diversi però di voi che mi hanno scritto a proposito di banche. C'è la lunga coda di quello che sabato a Conte da Belva avevo detto su Viola. Come vedete, avevo ragione a dire che Viola aveva detto l'amministratore delegato del Veneto di Vicenza una solenne sciocchezza a dire che in caso di bail-in c'era il rientro dei prestiti in bonus per 30 miliardi. Si è dovuto autosmentire. E sono abbastanza incredulo che banchiere di queste proporzioni alla testa di banche nei guai e con procedure e con trattative europee aperte da così tanto tempo possano dire una simile sciocchezza, perché non li credo ignoranti. Quindi evidentemente voleva premere dicendo una cosa che però non stanno in cielo né in terra. In più sapete che c'è stato il salvataggio in pochi giorni che umilia l'Italia, che apre le procedure, le tiene aperte per anni sulle sue banche nei guai, come le due venete, come MPS eccetera eccetera. Loro hanno risolto in 72 ore con il burden sharing, quindi con la conversione di subordinati e poi un aumento di capitale che farà Santander a copertura delle perdite stimate per nuovi write-off di crediti deteriorati nell'immobiliare. Quindi, come vedete, la risoluzione, la direttiva di risoluzione BRRD si può applicare, sì, senza crisi sistemiche, ma anzi la evita, quindi viene smentita la linea dei regolatori italiani che continua a dire no, non si può applicare. Oltretutto rimarca la velocità spagnola e il rispetto alle regole europee con la lentezza che ci rende agli occhi dei mercati mondiali ed europei come un paese molto sospetto, perché noi così la creiamo la crisi sistemica, non riuscendo mai a capire che le regole vanno adottate, non aggirate, diluite, rimandate e così via. Però questa resta la mia opinione, sto rispondendo a tutti, perché il caso Banco Popolare Santander in effetti sembra proprio studiato a tavolino per dare un ceffone ai regolatori italiani. Permettete che aggiunga una cosa, so che poi chi mi segue a Parisiani non la pensa così. Io sono arrivato a questa seguente conclusione dopo vedere amministratori delegati che dicono frottole sul rientro dei prestiti in bonus in caso di bail-in. Quando sentite o leggete che qualcuno vi dice che il bail-in avrebbe conseguenze sistemiche, ai miei occhi ormai di osservatore di lungo periodo in questi anni di crisi italiana, mi pare che la vera crisi sistemica sarebbe, in caso di bail-in, rompere la collusione tra politica e regolatori italiani. Questo è il vero effetto sistemico, e siccome nessuno dei due hanno interesse che questo avvenga, ecco perché noi teniamo aperte queste crisi per tempo così lungo e ci inventiamo il nemico straniero. So che Sebastiano Barilloni non la pensa come me, pensa che sia l'Unione Europea che sbaglia, i tedeschi dietro di loro. Io penso invece che noi non vogliamo capire la lezione, e soprattutto neanche quando gli altri ce la dispiegano in maniera così geometrica e rapida come è avvenuto in Spagna. Non lo dico per esterofilia, lo dico perché sono convinto che tenere aperti questi problemi con le due venete MPS così a lungo sia il male dell'Italia, alimenti la sfiducia in Italia del risparmio e dei mercati verso l'Italia. Questa resta la mia convinzione, soprattutto perché poi emergono fatti come questi eclatanti, questo di Viola e questo del Banco Popolare. Oggi parliamo invece, all'indomani dell'arrivo all'Italia delle prime, delle 32 dichiarazioni iniziali di interesse, cerchiamo di capire bene che cosa questo voglia dire. Qui innanzitutto si tratta di capire e di spiegarvi, ma siamo in presenza di una gara? Sì o no? La risposta è non ancora, e vedrete, c'è un processo lungo e ancora non del tutto chiaro sui criteri che verranno seguiti per pesare davvero questa manifestazione di interesse, per fare una selezione per poi l'ammissione a una prima data room della compagnia, ma ancora non con i veri dati riservati, poi un terzo passaggio, il tutto di qui a ottobre, quindi mesi all'italiana, come sempre. Si tratta di capire però, dall'emergere di alcuni dei nomi di coloro che hanno mandato le offerte, che cosa possa voler dire, che tipo di interessi intanto abbia suscitato il prestito ponte della compagnia e l'operato dei tre commissari, che arriverà a luglio a un vero e proprio piano industriale. Non capisco come dei commissari possano fare un piano industriale a nome di quali soci e quale finanza, però è così la gestione del commissariamento straordinario italiano. È una via di mezzo tra un interesse pubblico senza capire chi investa, ma a quel punto anche creando condizioni rispetto a chi si dichiara pronto a investire. Quindi si tratta di capire questo da una parte tecnicamente e dall'altra, siccome sono usciti nel frattempo anche ieri i dati del mercato italiano, il mercato non è affatto piegato per la crisi dell'Italia, sono altri vettori che da anni in maniera crescente soddisfano chi in Italia vuole volare, sia in Italia che in Europa che all'estero, i dati lo confermano. Ma si tratta poi di capire anche, e abbiamo scelto apposta nei nostri ospiti, oltre a Andrea Giuricin che è un nostro punto di riferimento, insegna economia dei trasporti alla Bicocca, e lo ringrazio di essere qui con noi. Ciao Andrea. E però abbiamo anche una voce che seguirà insieme alle altre associazioni sindacali con un punto interrogativo grande come una casa. Ovviamente ciascuno di questi passi fino alla decisione, quando verrà assunta, capiremo come verrà assunta, ed è con noi per questo il segretario nazionale della FILT CGL, cioè del sindacato dei trasporti della CGL, Nino Cortorillo. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Allora Andrea, facci capire, vogliamo spiegare innanzitutto a chi è a casa che meccanismo di, un po' singolare secondo me, di gara è questo? Che passaggi prevede e soprattutto sono noti i criteri e i punteggi con cui verranno fatte le selezioni? Innanzitutto bisogna ricordare che è una manifestazione di interesse che di fatto costava zero e al limite poteva portare l'unico vantaggio di avere qualche dato di Alitalia nel caso. Quindi fare una manifestazione di interesse è qualcosa di abbastanza semplice. Il vero passaggio è riuscire a capire se da questa prima manifestazione di interesse ci sarà poi qualcuno che ha interesse e soprattutto possibilità economiche di mettere qualche miliardo di euro in questa compagnia, convinto che questa compagnia possa tornare all'utile abbastanza velocemente. E quindi anche in una futura gara bisognerà vedere davvero chi si presenterà per portare i soldi per sviluppare Alitalia. Però forse dipende anche dai criteri della gara poi chi dovesse decidere di presentarsi o meno, ma i criteri li conosciamo? Che io sappia i criteri non sono ancora così chiari e credo che saranno più chiari forse dopo la presentazione del piano industriale, che come giustamente ricordavi te è un punto interrogativo, perché se il piano industriale è abbastanza, diciamo, semplice da un punto di vista di taglio di costi, nel senso si sa più o meno come andare a tagliare costi, dall'altro punto di vista, cioè i ricavi, all'Italia continua a avere dei grandi punti interrogativi, cioè per aumentare il proprio yield, per aumentare i propri ricavi, cioè il ricavo medio anche per passeggero, bisogna investire tanti soldi e quindi anche in una successiva fase di gara bisognerà trovare qualcuno che metterà i soldi. Immagino che in questa futura gara uno dei criteri più importanti sia la quantità di denaro di investimenti per i prossimi N anni, 3 o 5 anni. Tu stamattina hai parlato di un, diciamo, hai dato un ordine di grandezza, qui ci vogliono almeno 4 miliardi per essere realisti. Ricordiamoci che nel settore aereo un singolo aereo lungo raggio costa 300-350 milioni di euro. È chiaro che si possono anche prendere in leasing, ma è anche chiaro che se si prendono in leasing i costi sono più elevati di quelli di averli direttamente di proprietà. Quindi Alitalia ha assolutamente necessità di avere 4 miliardi, perché se perde 500-600 milioni di euro l'anno, abbiamo visto che dal 2009 ad oggi ne ha persi 3 miliardi, è chiaro che se vuoi fare degli investimenti oltre a coprire solo le perdite c'è bisogno sicuramente di un grande investimento. Anche perché oltre alle perdite poi di gestione corrente c'è debito accumulato. Esattamente, c'è sicuramente il debito, c'è sicuramente un debito di 3 miliardi, che anche quello bisognerà capire che fine farà, se andrà tutto in capo. Cioè, se saranno tutti i creditori che ci perdono, bisognerà capire i famosi 600 milioni di euro che fine faranno, i famosi 600 milioni di euro messi dal contribuente. Secondo me è bene ricordare un punto principale, è quello che fino ad oggi il contribuente ha pagato fin troppo ed è bene che questi 600 milioni di euro tornino indietro, qualunque sia il destino o qualunque sia, diciamo, il destino finale di Alitalia, da un punto di vista di ok, continua ad operare o non continua ad operare. A me tocca naturalmente ricordare che nel 2007 un analogo prestito ponte, prima o poi dell'operazione Fenice, non tornò indietro. Sì, ci furono, sì, fu appunto, fu nel, se non mi ricordo male, nell'aprile del 2008, quei famosi 400 sì. milioni di, fra Prodi e Berlusconi, sì. Diciamo nell'alternanza di governo, che dovevano essere ridati indietro nel giro di pochi mesi e invece sono stati bruciati nel giro di 4 mesi, quando poi la compagnia fallì. E ancora una volta ricordo che fu proprio il contribuente a pagare lo scotto con la bad company, e la, diciamo, la good company andò a questi investitori famosi italiani, che purtroppo di trasporto aereo non avevano troppa esperienza, e ancora ad oggi si paga lo scotto di quell'errore del 2009 da un punto di vista di flotta, da un punto di vista di prospettive della compagnia. Allora, resta lì, che poi con te torniamo a capire quale può essere la ragione per cui sia compagnie full service, sia distintamente, come avviene dalle indiscrezioni oggi pubblicate da molti giornali, invece numerose compagnie low cost abbiano manifestato insieme contemporaneamente una dichiarazione di interesse, nel senso che concorrono per parti separate della società. Chi tra loro può avere un interesse a tenerla il più possibile integra? Perché ricordiamo a chi ascolta che il governo ha detto sì, in teoria le manifestazioni di interesse si possono rilevare, manifestare sia come il governo spera per rilevarla in toto, sia per rilevarne in toto almeno tutto ciò che riguarda il servizio di volo diretto, sia anche per chi naturalmente pensi invece a parti della compagnia. Il governo dice sempre però noi naturalmente privilegiamo la prima ipotesi, queste sono parole di Del Rio. Però prima di arrivare a quello, volevo la prima impressione di Nino Cortorillo e della CGIL. Che impressione aveva fatto questa lista, sia pure pubblicata a spizzichi e bocconi, perché in teoria c'era l'impegno della riservatezza? Sì, ovviamente, essendo come avete detto voi una lista così ampia, poteva iscriversi chiunque. Anche l'indiscrezione non è casuale, che provengono più da coloro che hanno fatto l'offerta che ovviamente da coloro che l'hanno ricevuta. Sì. Bisognerà capire esattamente nel corso di questi mesi l'interesse che è stato manifestato, se è un interesse solo di acquisizione di dati sensibili e riservati, perché ovviamente stiamo parlando di un settore ad altissima competizione che si gioca su tariffe, su posizionamento di mercato, e capire se coloro che hanno manifestato l'interesse sono interessati, e questa è la prima distinzione, se sono interessati ad Alitalia o sono interessati al mercato italiano. Sino ad oggi la concorrenza esercitata nel nostro paese si è mossa esattamente in questa direzione, non è un caso che il mercato, cioè quindi il traffico, il numero di passeggeri trasportati negli ultimi 15-20 anni è triplicato e la posizione di mercato di Alitalia invece si è ridotta, che è un caso unico probabilmente in tutto il panorama del trasporto aereo. Cioè, ovviamente è un caso che boccia clamorosamente la competenza di chi ha guidato la compagnia. Ecco, questo. Beh, ovviamente non posso aggiungere nulla qui. E se posso essere crudo, il management pubblico ha fallito, no? Sono falliti i capitani coraggiosi, sì. Ed è fallita anche management di una compagnia straniera, ognuno pensando che quello di prima era l'artefice di una sconfitta. Fatti, quelli che lei sta enumerando non sono opinioni, sono fatti non pugnabili. No, ma io penso sempre di partire da delle analisi che si poggiano sui fatti, poi le opinioni sono... Posso chiederle di ragguagliare i nostri ascoltatori, perché oggi c'è stato un incontro, io qui delle agenzie, sì. Perché intanto rispetto a ciò che fanno i commissari partono strumenti di integrazione al reddito, partono cassa integrazione a rotazione, partono cassa integrazione a zero oro. Come stanno i numeri? Ma i numeri stanno così molto, molto rapidamente. E da una parte c'è il settore volo che va in qualche modo in continuità con una cassa in solidarietà che è cessata con l'apertura dell'amministrazione straordinaria, sì. Perché non presuppone la cassa per solidarietà, è solo una cassa per crisi. E lì abbiamo un numero che riguarda 190 piloti al giorno massimo in cassa integrazione e 340 assistenti di volo. Per quanto riguarda invece il personale di terra... Ma questi restano... È il numero che con persistenza di rotazione o questi sono in rotazione? In rotazione, ok. Il personale di volo è tutto in rotazione, ovviamente avendo sostanzialmente qualifiche molto molto omogenee. Sì. Sto parlando di numeri massimi che ovviamente durante l'estate potrebbero essere in ragione del traffico estivo inferiori e poi aumentare durante il corso dell'inverno. E per il personale di terra? Per il personale di terra parliamo di un numero che ci hanno dato di 828 unità, di queste prevedono 317 a zero ore, e questo dichiaro qua, come ha dichiarato oggi, è un problema. Per noi è un problema perché mettere persone in cassa a zero ore, è inutile nascondersi, presuppone che queste siano attività non più, come dire, non più stimabili all'interno del ciclo produttivo di Alitalia. Noi lavoreremo ancora nella settimana entrante, in cui ci saranno gli ultimi incontri, per far sì che il massimo numero possibile di posizioni di lavoro venga messa in un regime di rotazione, anche per compensare. Poi sappiamo che ovviamente la struttura produttiva, organizzativa, professionale di Alitalia è molto complessa, ma il nostro obiettivo è di avere una cassa rotazione estesa al massimo livello. Oh, io qui le devo fare una domanda, e pregandola di dare una risposta che tenga conto che chi ci ascolta non è tenuto a conoscere le tecnicalità né della procedura in corso di amministrazione straordinaria, quindi relativa ai poteri dei tre commissari, né di una conoscenza dettagliata di dove sta distribuito l'organico complessivo, per così dire, dei dipendenti di Alitalia. E quindi la mia domanda è ipersemplificata, mi perdoni, ma per far capire meglio a chi ascolta. Chi ascolta può pensare alla seguente faccenda: ma se è aperta una procedura per verificare qual è l'offerta migliore, perché assumere intanto questi provvedimenti? Sulla base di che cosa i commissari le giustificano? Nel fatto che non c'è cassa immediata per pagare, ma allora il prestito ponte a cosa serve? In caso contrario, significa mettere una condizione di fronte alla quale chiunque arrivi non chiede di meglio che salire in groppa rispetto a un inizio di revisione, di identificazione di aree di business i cui dipendenti sono già fuori, perché lo dicono i commissari. Figuriamoci chi arriva. Qual è la risposta a questa domanda? Premetto che non ho ancora incontrato una persona in questi 20 anni di cui mi occupo di trasporto aereo che non si dichiari esperto di Alitalia. No, no, io dico il contrario, invece. Ha capito che la premessa è l'esatta contraria. Sì, ma ovviamente la mia era un'ironia in risposta alla sua premessa. Qui tutti si dichiarano esperti di Alitalia, basta aver volato o visto un aereo ecco. e sono tutti esperti. Tutti commissari della nazionale. Tutti assolutamente. Non ne ho trovato uno che non ha un suo piano industriale perfetto. No, vengo alla sua domanda. La ragione della cassa integrazione non è una ragione di carattere organizzativo, però ripeto, dividiamo in due. Sul settore volo vi era già una cassa per solidarietà e quindi quei numeri sono rimasti intonsi, integri nel trasferimento da cassa per solidarietà a cassa integrazione per crisi. Per quanto riguarda la terra, ha un po' trascinato per inerzia quelli che erano i numeri che Alitalia aveva individuato febbraio-marzo nel piano industriale che aveva portato a quel verbale poi bocciato a referendum, leggermente abbassato. È evidentemente un problema di cassa. Anche per questa ragione. Quindi tradotto, per fare durare di più la cassa del prestito ponte. Esattamente questo. Abbiamo risposto alla domanda che ci arrivava. Se posso aggiungere, tra le molte cose che condivido con il professor Giudicin, che oramai incrocio in molte di queste trasmissioni, ovviamente il problema di Alitalia è stato, non adesso, questo mese, l'anno scorso, in questi 10 anni, è stato sempre un problema di ricavi. Sì. È ovvio che è un'azienda che però ha una emergenza, perché è fallita Alitalia, se no non sarebbe un'amministrazione straordinaria. E quindi il problema di cassa in questo momento, io capisco e condivido questa idea, bisogna durare molto di più di quanto non sia l'effetto del prestito dei 600 milioni. E quindi siccome i ricavi è una leva, certo l'estate aiuta moltissimo, ma poi arriva l'autunno e l'inverno, ma è una leva su cui si può agire su periodi medio-lunghi e non con l'assetto di mercato su cui sta oggi Alitalia. Esatto, però vede Cortolino, questa considerazione è così elementarmente condivisibile che infatti io ero per procedure di tempi stretti. Il tempo lavora contro non solo la continuità di Alitalia, ovvio, visto che poi la cassa finisce, ma soprattutto è un aiuto al ribasso delle offerte, perché come è ovvio chi le fa tiene conto del fatto che c'è un tic tac, un conto alla rovescia sulla cassa che si esaurisce. Quindi io per questo, quando ho visto i tempi così lunghi, mi sono detto ma, però insomma, opinioni diverse. Detto tutto questo, torniamo tra un minuto e ripartiamo con Giudicin. Ma perché possono insieme presentare offerte sia le low che le full service? Tra un minuto. Faircam Air & Ocean non conosce confini, spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta La la versione di Oscar. Allora, Andrea Giuricin, alcuni ascoltatori chiedono: non abbiamo capito la manifestazione di alcuni come Ryanair di interesse quando dicono che sono interessati a un fideraggio nei confronti di una compagnia. Ma se vogliono fare questo, stiamo parlando di accordi di co-sharing, di accordi commerciali, non di assumere il controllo o pezzi della compagnia. Che cos'è che non hanno capito i nostri ascoltatori? No, in realtà hanno ragione, cioè Ryanair l'ha detto chiaramente O'Leary durante la presentazione anche dei diversi conti economici dell'azienda, che è interessata più che altro al mercato italiano e non all'Italia. Nel caso può essere interessata a fare il fideraggio per i voli a lungo raggio, ma i voli a lungo raggio dell'Italia passeggeri sono circa 2 milioni, meno di 2 milioni e mezzo, quindi di fatto sono piccoli numeri. Ryanair è interessata al mercato italiano, l'ha detto chiaramente, non è neanche interessata agli aerei di Alitalia, perché Ryanair ha un singolo tipo di aereo, che è il Boeing 737-800, e Alitalia praticamente non ha questo modello in flotta. E quindi di fatto... Anche perché O'Leary ha detto più volte anche al governo italiano, direttamente a Del Rio: non ti preoccupare, anche se finisce la continuità di Alitalia, noi in 24 ore risolviamo il problema, l'ha detto proprio esplicitamente. Lo ha detto e l'ho anche fatto in passato, ad esempio su Budapest, che chiaramente è un aeroporto molto più piccolo. Malev, la compagnia di Stato ungherese, fallita ed era molto più piccola rispetto all'Italia, ma Ryanair con 120 milioni di passeggeri l'anno, con gli aerei che gli stanno arrivando sempre di più in flotta, a presto ne avrà 400. Ma se partiamo dal presupposto che tutte le manifestazioni di interesse delle diverse, a quanto pare, che le hanno presentate, hanno come fine quello di crescere sul mercato interno, perché altre full service, che pure sono molto schermate e non vogliono che figurare, perché Lufthansa ha sempre detto non siamo interessati, a cosa loro potrebbero essere interessate? Loro potrebbero essere interessate solo a rilevare la parte di Alitalia che ne fa una compagnia domestica e poco più che regionale, o sbaglio? Secondo me sì, cioè se andiamo a vedere, o qualcosa poco di più, nel senso, se andiamo a vedere ad esempio il modello di business di Lufthansa, del gruppo Lufthansa, vediamo che dentro anche Swiss, dentro anche Austrian Airlines, ha preso anche SM Bruxelles, quindi ha dentro preso anche i mercati, diciamo, regionali in ottica europea, che sono Austria, che sono Belgio, che sono la Svizzera. Quindi comprarsi, fra virgolette, anche il mercato italiano, mantenendo un piccolo hub su Roma Fiumicino o mantenendo un medio hub anche su Roma Fiumicino, sicuramente può fare comodo a una Lufthansa, ma sì, è chiaro che questa Alitalia molto probabilmente sarebbe intorno ai 12-14 milioni di passeggeri rispetto ai 22-23 che adesso. Quindi Lufthansa è interessata soprattutto agli slot, forse a qualche aereo, ma ricordiamo che la flotta di Alitalia è in gran parte leasing, quindi non è più di proprietà. E quindi Lufthansa è chiaramente, lo ha detto anche chiaramente l'amministratore delegato Spohr, che è interessata agli slot e al limite a qualche aereo. Potrebbe creare un mini hub o un hub di medie dimensioni su Roma Fiumicino, cercando poi di drenare anche traffico da Milano Linate. Questa è la strategia che può essere nella mente di Lufthansa, ma poi bisognerà vedere, perché come giustamente ricordavi te, tutti questi offerenti hanno dalla loro il tempo che sta passando e i soldi che si consumano. Allora, Cortorino, la mia domanda invece è un'altra. Ma i vostri rapporti con il governo, cioè quello che ci può dire, perché poi ci sono anche, per così dire, trattative riservate su questo, e capisco benissimo dal punto di vista sindacale. Ma il governo vi ha fatto capire che quando poi sceglierà i criteri davvero per procedere all'eventuale assegnazione, cioè quando siamo tra il secondo e il terzo passaggio, in vista di ottobre, quindi quando c'è l'ammissione ai dati riservati veri della compagnia, perché fissare quei criteri significa provare a portare in porto un modello per la compagnia, non so se lei condivide, ma a quel punto voi sarete sentiti prima o dopo o li leggerete sui giornali come noi? Ma questo non lo so, quello che posso dire è che dopo l'esito dell'accordo di aprile il rapporto con il governo è stato sostanzialmente nullo, cioè i rapporti che noi abbiamo avuto non sono stati più a livello istituzionale o politico, ma nel rapporto con i commissari. Devo dire che da un certo punto di vista era anche logico, in questa fase il ruolo e il rapporto del governo è un ruolo come dire, molto sullo sfondo, molto di rapporto sfondo, direttamente. Sì. Con i commissari. È ovvio che con il passare delle settimane, con la scrematura delle offerte, e man mano che si capirà meglio quali sono i soggetti e ovviamente qual è l'interesse, ma probabilmente presumo che andremo a dopo agosto, precederà, è chiaro che a quel punto il rapporto con il governo, perché non dobbiamo dimenticare che al di là della nel ruolo formale e informale, ma stiamo parlando sempre di Alitalia, ci sarà qualche cosa che attiene ai commissari. Ai commissari e poi c'è poi... Ma non c'è, per capirci, per spiegare ai nostri ascoltatori, estate di attesa e passione, ma a settembre-ottobre si entra nel vivo. Questo poi volevo che fosse chiaro a chiunque, perché poi ci chiedono anche non prenoto più biglietti, eccetera, eccetera. Le scansioni temporali sono queste. Cosa avverrà? Lo capiremo solo vivendo. Intanto grazie ai nostri due ospiti, continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Mia domani alle 8:20, attenti alle 2.